Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo con noi il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, anche oggi parliamo di un argomento sicuramente interessante, perché sono sempre tante le tasse e i bolli che ci troviamo a pagare, vero Carlo? Sì, un argomento certamente poco simpatico agli ascoltatori, perché parliamo di tasse e questa volta si è venuto a fare anche un censimento un po' di quante sono le tasse che paghiamo e quanto normalmente pesano sulle tasche di ciascun cittadino, annunciando da subito che le tasse sono circa in Italia un centinaio, cosa che è anche difficile un po' elencare tutte. Mamma mia, tantissime, addirittura c'è l'imposta sui fiammiferi, io non lo sapevo. Sì, allora diciamo Francesco che le tasse, come abbiamo detto, sono normalmente composte da addizionali, accise, imposte, sovraimposte, tributi, ritenute e via dicendo. Però è un sistema tributario molto frammentato che continua a tartassare cittadini e imprese, che quindi che valgono nell'assieme circa 450 miliardi di euro, e ricordiamo che solo le prime 10 imposte valgono la bellezza di 421 miliardi, che garantiscono praticamente l'85% del gettito tributario. Ecco, sicuramente ci sarà la benzina, credo, benzina, diesel, queste cose qua, no? Beh, diciamo che se parliamo di benzina e diesel bisogna pensare ad addizionare l'accisa e l'IVA, però se vogliamo ampliare un po' i dati dobbiamo cominciare innanzitutto a dire che lo Stato italiano ogni anno introita dalle tasse esattamente 493,5 miliardi. Come abbiamo detto, le prime 10 tasse garantiscono l'85% delle entrate per un valore superiore ai 420 miliardi, e possiamo subito cominciare a dire che la più elevata è l'IRPEF, quella che paghiamo tutti i giorni è l'IVA, la più pagata dalle società è l'IRES, la più odiata dalle imprese è l'IRAP, la più singolare è quella applicata dalle regioni sulle emissioni sonore degli aeromobili. La più lunga, come dici tu, è l'imposta sostitutiva imprenditori, lavoratori autonomi, regime di vantaggio e regime forfettario agevolato. La più corta, bollo auto. L'ultima grande imposta introdotta è stata la TASI. La più odiata dalle famiglie è stata l'IMU, e la TASI attualmente applicata sulle seconde e le terze a casa. La più stravagante sono le imposte sugli spiriti, distillazioni alcolici, quella sui gas incondensabili e sulle riserve matematiche di assicurazioni, tassa sull'accantonamento obbligatorio delle assicurazioni, e poi possiamo continuare a divertirci sulle tasse annuali, magari pensando alla numerazione e bollatura dei libri, registri contabili e tutte le sovraimposte applicate dalla dogana, tra cui i fiammiferi, come hai detto tu, i sacchetti di plastica non biodegradabili, birra, eccetera. Mamma mia, cioè, effettivamente sono veramente tante, troppe. Adesso per esempio dovrò pagare la tassa del bollo auto e è ogni volta un coccolone. Sì, ricordiamo che le tasse incidono per ogni cittadino, cioè diciamo che ciascun italiano paga mediamente 8.000 euro di imposte e tasse. Se poi dobbiamo pensare anche ai contributi previdenziali, il calcolo stimato è di circa 12.000 euro, quindi questo ci colloca certamente sempre ai primi posti del mondo come tasse, ma anche come incidenza di tasse che paghiamo sui nostri redditi. Ecco, devo dire che c'è poco da aggiungere. Chissà se un giorno avremo magari un po' meno tasse e riusciremo a essere un po' più tranquilli anche nella gestione economica della famiglia. Ma fin tanto che i nostri politici non capiscono che invece di avere un miliardo di tasse che permetta a con fatica anche poter essere in regola e a non capire quanto veramente ne paghiamo, perché secondo me c'è l'interesse a non farci capire cosa veramente paghiamo, l'unica soluzione sarebbe quella di raggrupparle e prevedere delle aliquote congrue ai redditi di tutti. Certamente, così come è impostato il nostro fisco, invece ci sguazzano certamente i burocrati ma sicuramente ciascuno di noi ci può rendere conto come si risulta molto anche difficoltoso poter censire tutti e anche magari arrivare sempre puntuali ai pagamenti. Certo. Ricordo che l'Adico è sempre attiva e presente, c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it che potete andare a spulciare con tante belle e interessanti notizie. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.